le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Renzi all'Europa, se respingono la manovra, dice a Radio 24, la rimandiamo a Bruxelles tale e quale. La replica, abbiamo le basi legali per esaminarla nei dettagli. E tutti i dettagli della manovra in attesa del testo, dalla possibilità del part-time per gli ultra 63enni all'opzione donna sulle pensioni, dall'addio a IMU e TASI prima casa, ai tagli di tasse per le aziende, sentiremo una scheda ampia e dettagliata su questo tema. Il caso dell'imprenditore scomparso nel Bresciano perse le tracce anche di un dipendente, era uno dei tre operai presenti la sera della sparizione. Medio Oriente, in Cisgiordania, la giornata della rabbia, in fiamme il complesso della tomba di Giuseppe, sono stati dei ragazzi palestinesi con le molotov. Indagherà anche la procura sul caos di ieri alla metropolitana di Roma, mentre emergono i dati dell'anticorruzione, quasi tutti gli appalti del trasporto pubblico concessi senza gara. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E prima di andare alle parole del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla replica che già sta arrivando da Bruxelles, c'è una notizia importante che vi dobbiamo dare e vedremo di approfondirla nel corso della trasmissione ed è stata appena abbattuta dalle agenzie. Un velivolo di provenienza non identificata è stato abbattuto dalla Turchia per aver violato il suo spazio aereo, quello che riferisce l'esercito di Ankara, citato da media locali. Le forze turche hanno abbattuto un drone non identificato che, secondo la versione di Ankara, era entrato nello spazio aereo turco e non aveva risposto a ben tre avvertimenti. Questo è quello che sostiene la BBC. È naturalmente una vicenda che alza ancora il livello di tensione in una zona, e siamo appunto al confine con la Siria, quindi dove la tensione è già molto alta. Vedremo di approfondire tra poco con Marco Barbonato in diretta da Istanbul, se riusciremo a trovarlo. In apertura intanto le parole del Presidente del Consiglio, come si diceva a Radio 24, sull'Europa. È intervenuto questa mattina ospite di Alessandro Milano e Oscar Giannino, ha detto chiaramente che se Bruxelles respingerà la manovra, questa tornerà alla Commissione tale e quale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così risponde a Radio 24 il Premier Matteo Renzi, risponde proprio sulle critiche riguardo alla possibile bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. Per il Presidente del Consiglio l'Italia ha una sudditanza psicologica all'Unione Europea, basta che parli un portavoce di terzo grado e i media rilanciano come Bruxelles dice. Ma sentiamo che cosa ha detto il Premier proprio ai microfoni di Alessandro Milano e Oscar Giannino. Bruxelles non è il nostro maestro che fa l'esame, Bruxelles non ha nessun titolo per intervenire nel merito delle misure, può dare suggerimenti, consigli, fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale e quale e sei uno pari e non cambia niente, cioè questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici beh peccato sì, ma in questo caso non esiste, perché cioè noi siamo tra i pochissimi che stanno dentro le regole europee, ma noi siamo gli unici che stanno dentro non soltanto il 3% ma il fiscal compact. L'Italia, spiega quindi Renzi, dà molti soldi all'Europa e sul rispetto dei parametri inviterei a guardare i dati del deficit di altri paesi. Renzi poi si dice stupito dalla discussione sulle coperture, spiega che da 2 anni l'Italia ha cominciato a tagliare le tasse, siamo entrati in una linea di sviluppo per cui le tasse vanno ridotte, non ci saranno altri aumenti di imposte dopo l'eliminazione dell'IMU. Sull'inserimento in bolletta del canone RAI, si precisa che la norma è al riparo da impugnative. Riguardo all'aumento del limite del contante a 3.000 euro, solo noi in Europa ce l'abbiamo a 1.000 euro, l'evasione di Cerenzi è calata per l'incrocio dei dati e misure che abbiamo preso come la fatturazione elettronica. Infine su Roma, Renzi non mette naso nelle vicende della capitale, il mio obiettivo dice cercare di mettere a posto il paese. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo riassunto di quello che ha detto Renzi questa mattina a Radio 24. Sono state citate alcune misure della legge di stabilità, più avanti ci torneremo nel dettaglio, come già sentivate nei titoli, con un'ampia scheda. Vi ricordo anche che oggi il Sole 24 Ore in edicola dedica 15 pagine a tutto questo e quindi prosegue lo sforzo di tutto il nostro gruppo editoriale per chiarire che cosa è contenuto nella manovra, in attesa in realtà ancora di un testo definitivo. Intanto andiamo subito a Bruxelles dal nostro inviato Sergio Nava, dove è arrivata a Bruxelles tra l'altro la lettera del Ministero dell'Economia con i conteggi sui soldi spesi per fronteggiare l'emergenza migranti, ma arriva anche una prima reazione alle parole di Renzi. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Beh, qui a Bruxelles la questione, diciamo, delle parole di Matteo Renzi a Radio 24 è stata protagonista di un fuoco di domande, un fuoco di sbarramento di domande neppure mezz'ora fa in conferenza stampa, proprio per capire un po' la reazione che la Commissione europea ha avuto di fronte alle sue dichiarazioni. Allora, quello che ha detto sostanzialmente il portavoce della Commissione, che non è voluto entrare, diciamo, nei dettagli della polemica, anche perché ha detto questo è qualcosa che deve poi essere affrontato a livello di presidenza della Commissione, è stato ribadito che Bruxelles ha le basi legali per guardare nei dettagli delle manovre, delle leggi di stabilità, e che quindi esistono queste basi legali, è stato semplicemente ribadito questo potere. Inoltre è stato anche detto che Bruxelles ha fino alla fine di novembre per esaminare la legge di stabilità, siamo impegnati nel dialogo con le autorità italiane e faremo il nostro esame dei piani di budget, ha detto il portavoce, che ha ricordato anche come il 5 novembre saranno pubblicate le prossime previsioni economiche autunnali e ha detto sostanzialmente fino ad allora non abbiamo altri commenti da fare. Simone, poi dicevi della lettera appunto inviata dal Ministero dell'Economia riguardante i costi sostenuti dall'Italia sui migranti. Allora, il MEF stima in 3,3 miliardi i costi sostenuti quest'anno, di cui 3 miliardi di spesa corrente, 50% dei fondi destinati alla ricezione dei migranti e il 20-30% invece per quanto riguarda il salvataggio. Da Bruxelles è tutto. Grazie Sergio Nava, torneremo a collegarci con te per vedere più avanti se ci sono aggiornamenti ulteriori e reazioni ulteriori da parte della Commissione europea. Intanto abbiamo le reazioni alla manovra che arrivano dall'Italia, delle parti sociali e degli altri partiti. Abbiamo in diretta il nostro Vincenzo Miglietta da Capri, dove oggi pomeriggio si apre il convegno ai giovani imprenditori di Confindustria, e quindi anche da là arriveranno idee e informazioni proprio sulla legge di stabilità. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Patrimonio Italia, cambiamo i punti di vista, 30° convegno dei giovani imprenditori all'ora di Confindustria qui a Capri, l'occasione per fare un punto sull'attualità con la legge di stabilità e non solo rilanciare l'emergenza mezzogiorno, perché il Sud non è solo la metà del paese, è la sua metafora, dicono gli industriali, i problemi che vive sono i problemi dell'Italia solamente amplificati, e risolvere questi problemi significa risolvere i problemi del paese. Quanto alla manovra, gli industriali rimandano, Simone, alle parole del presidente di Confindustria Squinzi, che dice il nostro giudizio è positivo. Dice Squinzi, innanzitutto non scatta la clausola di salvaguardia, non credo che avremo problemi con l'Europa, mi sembra che il ministro Padoan abbia lavorato molto bene su questo punto, aggiunge il leader degli industriali, che ribadisce ritengo che alcune nostre richieste siano state accolte, come gli ammortamenti al 140% sui nuovi investimenti. Quanto ai sindacati, è un giudizio per il momento sospeso, CGIL e CISL e UIL chiedono di essere ricevuti a Palazzo Chigi per approfondire maggiormente i temi della manovra, ma comunque dal sindacato al momento ci si aspettava di più, soprattutto sull'elemento lavoro. Simone. Vincenzo, invece sul fronte delle reazioni politiche? Sul fronte delle reazioni politiche partirei soprattutto da Silvio Berlusconi, che dice mi sembra di essere tornato ai tempi della scuola dove i miei compagni mi copiavano sempre. Renzi ha copiato l'innalzamento del limite del contante, il ponte sullo stretto, anche se copia sempre un po' male, ricorda l'ex cavaliere, un po' a metà, perché il ponte sullo stretto solo per i treni è una cosa risibile, e l'abolizione dell'imposta sulla casa, su cui dobbiamo essere felici se manterranno la promessa, perché si va incontro a quella cosa sacra che è la casa. Sin qui dunque Berlusconi, mentre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle si mettono sotto osservazione le coperture e soprattutto la flessibilità che in teoria dovrebbe, secondo il Movimento 5 Stelle, essere concessa da Bruxelles. In assenza di un testo, il governo dei tassatori, dicono i 5 Stelle, a mezzo tweet diffonde un comunicato in cui la flessibilità concessa dall'Unione Europea è ancora tutta da verificare. Simone. Grazie Vincenzo Miglietta, e buon lavoro a Capri per il convegno dei giovani imprenditori. Ti sentiremo ovviamente nelle prossime ore sulla legge di stabilità. Dopo questa pur ampia pagina torneremo più avanti, come vi dicevamo, con qualche dettaglio più specifico sulle misure previste. Siamo alla cronaca con le indagini sull'imprenditore scomparso nel Bresciano. Prima l'imprenditore, ora un operaio. Dopo i risultati negativi delle ricerche all'interno della fonderia, si continua a cercare Mario Bozzoli, il 50enne imprenditore di Marcheno, a nord di Brescia, di cui si sono perse le tracce da una settimana. Intanto è scomparso da mercoledì mattina anche un dipendente della stessa azienda, Giuseppe Ghirardini, 50 anni. L'uomo è uno dei tre operai che erano presenti nella fonderia giovedì 8 ottobre, ultimo giorno che l'imprenditore è stato visto vivo e non era ancora stato ascoltato dai carabinieri. Le ricerche si concentrano nella zona del passo alpino di Croce Domini. Il cellulare dell'operaio avrebbe agganciato infatti la cella telefonica di quest'area alcune ore fa. Intanto il legale della famiglia Bozzoli ha lanciato un appello. L'imprenditore soffre di ipertensione e ha bisogno costante di medicinali. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca con l'ondata di maltempo che ha investito il sud nella notte, esondato anche un fiume nel Casertano. L'acqua si sposta e con essa la paura. Laddove il fiume Calore era esondato, ora il sole illumina strade coperte di fango e distese di uliveti abbattuti. Ma mentre il Sannio conta i danni tra polemiche e scambi di accuse, è nel Casertano che si concentra ora l'emergenza nel bacino del fiume Volturno, gonfiato dal suo affluente. Castel Campagnano, Capua, Aliano, ora è qui, lungo il tracciato dell'Appia Antica, che le strade sono diventate torrenti. A breve attesa la piena e il sindaco di Castello a Volturno invita la popolazione ad allontanarsi. Un messaggio rivolto soprattutto a quanti abitano sulla riva destra del fiume, una precauzione, spiega, ma che dà l'idea dei danni che il maltempo potrebbe ancora provocare qui nel Casertano, in un territorio devastato dall'abusivismo. A ritroso sulla corrente, storia diversa invece quella del Sannio, dove l'alluvione ha fatto contare due vittime e danni per milioni di euro nelle campagne della Falanghina. Ai piedi del Taburno 45 famiglie sono state evacuate a Paupisi. Siamo in grossa difficoltà, è l'SOS del Sindaco. In un day after scandito già da un'accesa polemica con la protezione civile. Mai avvisati dell'alluvione, accusa il primo cittadino di Benevento, Fausto Pepe. Il bollettino equivaleva a piogge moderate, rincara. Quel territorio era in allerta, ma quando ci sono i morti, ammette il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, è evidente che si poteva fare meglio. Un copione già visto, anche questo, come l'ultima frana che taglia in due in Sicilia la Palermo Agrigento o gli allagamenti che creano disagi in Puglia. Tutte immagini che puntuali ogni autunno arrivano da punti diversi d'Italia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero ora, in Medio Oriente, dove nella cosiddetta giornata della collera è stato dato fuoco alla tomba di Giuseppe. Un attacco con bombe Molotov all'edificio che ospita la tomba di Giuseppe a Nablus, le fiamme nella notte e infine l'intervento delle forze di sicurezza israeliane che hanno messo sotto controllo gli accessi nella zona. A colpire il sito religioso la scorsa notte sono stati centinaia di giovani palestinesi per quello che è solo l'ultimo degli attacchi della terza intifada. Il bersaglio non è nuovo. Già da anni teatro di aspri conflitti fra le comunità ebree e musulmane, la tomba di Giuseppe, il figlio di Giacobbe di cui si scrive nell'Antico Testamento, era stata incendiata già nel 2000. Nelle prime battute della seconda intifada. Questa volta la dimostrazione risponde al richiamo della giornata della collera invocata ieri dal gruppo islamico Hamas in un contesto di crescenti violenze che nelle scorse settimane sono costate la vita a 30 palestinesi e 8 ebrei. Forte l'indignazione del governo israeliano. L'attacco dei giovani palestinesi alla tomba di Giuseppe ricorda le azioni dei più estremisti fra i gruppi islamici, dall'Afghanistan alla Libia, dichiarano dal Ministero degli Esteri, accostando la profanazione di oggi ad azioni analoghe da parte dell'ISIS. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dal Medio Oriente, mentre arriva notizia di poco fa dalla radio militare israeliana che un israeliano è stato pugnalato ad Hebron, ed è appunto notizia anche qua di pochi istanti fa. Ci spostiamo a Roma all'indomani del nuovo blocco della metropolitana, in questo caso a causa di un incidente, enormi disagi per i cittadini, mentre emergono i dati dell'autorità anticorruzione sugli appalti senza gara. Ammonta a circa 2 miliardi il valore degli appalti ATAC finiti sotto la lente dell'autorità anticorruzione, tutti quelli concessi dalla municipalizzata dei trasporti capitolini negli ultimi 5 anni per forniture, lavori e servizi. Dal 2011 ad oggi per il 90% degli appalti non c'è stata una gara, sono stati affidati con procedura negoziata prevista dalla legge solo in casi eccezionali, rileva l'organismo guidato da Raffaele Cantone, che oltre a segnalare l'irregolarità ha minacciato sanzioni se l'ATAC non fornirà dettagli entro un mese. L'azienda assicura di aver agito nel rispetto della legge, ma visto quanto emerso con Mafia Capitale c'è il sospetto che dietro quelle modalità di concessione degli appalti possa nascondersi il pagamento di tangenti. Parliamo di cifre pazzesche e gli affidamenti a Buzzi e Carminati sono briciole a confronto, commenta stamattina l'assessore ai trasporti di Missionario Esposito, che dopo aver denunciato per settimane come quella dell'ATAC sia ormai una situazione fuori controllo, ieri ha consegnato in procura un dossier sui trasporti pubblici della capitale che a giorni ha fatto sapere diventerà un vero e proprio esposto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche su questo torneremo più avanti, intanto restiamo a Roma per una giornata di celebrazione, di ricordo, perché 72 anni fa, esattamente il 16 ottobre del 43, gli ebrei di Roma venivano deportati ad Auschwitz. Un anno dopo esatto, il 16 ottobre del 44, gli artisti del ghetto di Terezin seguivano la stessa sorte degli ebrei romani. L'Opera di Roma ricorda la Shoah domani con un concerto itinerante alle stazioni della metropolitana C, suonando le musiche degli artisti di Terezin. Elisabetta Fiorito ha intervistato il presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Un evento per ricordare la Shoah, ma per ricordare qualcosa che va oltre la Shoah. La Shoah aveva l'intenzione non soltanto di annientare il popolo ebraico, cancellandone ogni traccia in senso fisico, ma anche in senso morale di quello che era stata la grande produzione su tutti i fronti e il grande contributo che il popolo ebraico aveva dato e continua, grazie a Dio, a dare. Recuperare quelle musiche significa in qualche modo aver sconfitto quella volontà. Quelle musiche che potevano non trovarsi più, essere completamente cancellate, oggi vengono recuperate. Gli artisti vengono deportati il 16 ottobre, i romani vengono deportati il 16 ottobre di un anno prima. È una ricorrenza funesta, ma che cosa bisogna fare perché la storia non si ripeta? Non dobbiamo più banalizzare, non dobbiamo più essere indifferenti. Ecco, questo deve fare la società civile, deve imporsi, deve dire che chi nega, chi non si attiva, chi offende il singolo e l'umanità lo fa complice di quei delinquenti che volevano distruggere l'umanità allora e cancellarne la memoria. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, ci collegheremo con il comune di Marcheno, il comune dove è scomparso l'imprenditore, il proprietario di una fonderia da qualche giorno e dove è scomparso, si è preso oggi anche un dipendente, sono partite le ricerche, vedremo di capire di cosa si tratta e come si stanno muovendo queste ricerche, poi sentiremo qualche dettaglio in più sulla manovra, sulla legge di stabilità varata ieri. Tra poco. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. La Turchia ha abbattuto un velivolo non identificato sui suoi cieli, si tratterebbe di un drone. Renzi all'Europa, se respingono la manovra, dice Radio 24, la rimandiamo a Bruxelles tale quale, la replica, abbiamo le basi legali per esaminarla nei dettagli. Il caso dell'imprenditore scomparso nel Bresciano, perse le tracce anche di un dipendente, era uno dei tre operai presenti la sera della sparizione. Medio Oriente, in Cisgiordania, la giornata della collera, in fiamme il complesso della tomba di Giuseppe, accoltellato un israeliano ad Hebron. Questi erano i nostri titoli, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E tra i nostri titoli avete sentito la vicenda dell'imprenditore scomparso l'8 ottobre scorso. Tutto è successo a Marcheno, un comune del Bresciano. Abbiamo in linea il sindaco Diego Bertussi. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei. L'imprenditore era Mario Bozzoli e si è appreso oggi della scomparsa anche di un'altra persona, di un dipendente dell'azienda che si pensa fosse presente, era uno dei tre presenti la sera che è scomparso l'imprenditore. L'abbiamo chiamata, sindaco, per capire un po' come state organizzando le ricerche e che cosa si sa. Allora, adesso proprio in questo momento stiamo partendo con il piano che prevede la ricerca della persona scomparsa. Oggi, da stamattina alle 7, sono già presenti sul territorio in alta montagna delle squadre del soccorso alpino della provincia ovviamente, e si stanno muovendo. In questo momento stiamo cercando la macchina, perché lui sembra andato via in macchina, quindi poi, trovata la macchina, si andrà a cercare intorno a terra. Sindaco, da quando si sono perse le tracce di quest'uomo? Dal momento della scomparsa dell'imprenditore o da dopo? No, la scomparsa risale a mercoledì mattina, verso le ore 9, che la sorella nella denuncia ha citato di aver visto per l'ultima volta. Poi da lì si sono perse le tracce. È stata agganciata la cella del telefono l'ultima volta su un territorio che stiamo esaminando adesso, sull'alta montagna, però poi più nulla. Quindi lui si è mosso con la macchina, l'ha lasciata in una zona di montagna, dopodiché si sarebbe mosso a piedi? Non lo sappiamo, perché la macchina non è ancora stata trovata. L'ultimo aggancio della cella del telefono risulta lì in montagna, quindi noi siamo partiti per illustrare quella zona. Siete partiti per illustrare quella zona. La sorella, appunto, che come ci diceva ha denunciato la scomparsa, vi ha dato qualche dettaglio in più? No, perché anche lei non l'ha visto partire. Si sa solo che è una persona metodica, una persona che se fosse stato via avrebbe chiamato, perché lui ha dei cani da caccia e avrebbe chiamato di accudirli, invece nessuno ha telefonato. Quindi questo è molto ma molto strano, perché lui per i suoi cani avrebbe sicuramente chiamato, invece nulla. La ringrazio, grazie a Diego Pertussi, sindaco di Marcheno, il comune dove tra l'altro viveva l'imprenditore Mario Bozzoli, dove è scomparso anche un dipendente dell'azienda. Siamo in provincia di Brescia, grazie sindaco per il suo tempo che in queste ore in particolare è prezioso. Vi abbiamo dato in apertura nei nostri titoli e anche in apertura di trasmissione la notizia di questo velivolo abbattuto sul territorio turco, insomma sullo spazio aereo turco, ma ai confini con la Siria, proprio dalla Turchia. Forse abbiamo qualche dettaglio in più, ci colleghiamo con Istanbul con Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La notizia arrivata da poco è esattamente quella di un drone, quindi di un velivolo non identificato per il momento, non si sa di quale nazionalità, che è stato abbattuto dall'aviazione turca. Questo drone avrebbe sconfinato dei cieli siriani in quelli turchi, le forze armate hanno confermato l'abbattimento, che è avvenuto, dicono, dopo 3 avvisi, secondo le regole di ingaggio della Turchia. Ricordiamo che negli ultimi giorni erano stati segnalati diversi sconfinamenti dei jet russi nei cieli di Ankara e che la Turchia si è ripetutamente lamentata, minacciando infine reazioni se la cosa si fosse ripetuta. Tutto questo mentre la NATO ha ribadito proprio oggi di essere pronta a difendere la Turchia dalla Russia in casi come questi. Questo fa sospettare, Marco, che proprio di un drone russo si possa trattare, no? Questo è il sospetto, e se si trattasse di un drone russo ovviamente sarebbe una situazione molto grave, perché tra Putin e Erdogan i rapporti sono tesissimi e nessuno può sapere come può evolvere la situazione nel momento in cui effettivamente Ankara avesse abbattuto un drone russo. Ti ringrazio, grazie a Marco Barbonaglia per questi aggiornamenti, se ce ne saranno ulteriori evidentemente puoi chiamarci e ti richiameremo in diretta. La manovra, la legge di stabilità, che è l'altro grande tema di giornata, ebbene oggi, come si diceva, trovate 15 pagine sul Sole 24 Ore, continueremo a seguire le vicende anche perché ancora non abbiamo un testo definitivo, e però quello che sappiamo al momento, almeno su quelli che sono i capitoli principali, è questo. Questa manovra, che porta a un notevole abbattimento delle tasse, abbatte le tasse sulla prima casa, ma abbatte le tasse anche sull'attività delle imprese. Le misure per le imprese. Per gli imprenditori che ci credono, per dirla con le parole del Presidente del Consiglio, è pronta un'agevolazione pari al 140% sui macchinari. In pratica, spendendo 100 si deduce 140. Una misura già attiva nell'ultimo trimestre di quest'anno per evitare l'effetto attesa. Scende invece lo sconto sulle assunzioni con contratto a tutele crescenti, a meno della metà, da 8.060 a 3.250 euro. Si riduce anche la durata, da 36 a 24 mesi. Per il taglio dell'IRES al 24%, parliamo dell'imposta sugli utili delle imprese, bisognerà aspettare il 2017. La possibilità di anticiparlo c'è, ma è legata al via libera, difficile, da parte di Bruxelles, della clausola immigrazione, che vale oltre 3 miliardi. C'è poi tutto un pacchetto dedicato ai piccoli imprenditori con partita IVA, ribattezzato il Jobs Act degli autonomi, innalzamento a 13.000 euro della franchigia IRAP, mentre il tetto sui ricavi per rientrare nel regime forfettario sale da 15 a 30.000 euro. Cosa cambia per le case? Alla voce casa, nella manovra, la lista è consistente. Per semplificare, si potrebbe dire che sull'abitazione principale non ci saranno più tasse. Abolita la TASI, abolita l'IMU anche per le abitazioni di lusso. 3,7 miliardi il costo dell'operazione. Scompare anche la TASI a carico degli inquilini. Dunque, IMU e TASI restano sulle seconde case. Attenzione però alle pertinenze dell'abitazione principale. Su cantine, garage, posti auto e sottotetti si continuerà a pagare l'IMU. Per tutto ciò che è all'interno dell'abitazione valgono ancora i bonus. Al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. Detrazione anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Al 65% l'eco bonus per le spese di interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Pensioni e pensionati. Qualche novità anche per i pensionati. Sale, o almeno dovrebbe, la no tax area, dai 7.500 agli 8.000 euro. Non è moltissimo, ma in parte compensa gli 80 euro che escono come bonus e rientrano come sgravio in busta paga. Per chi invece è prossimo alla pensione, a partire dai 63 anni e mezzo di età, potrà scegliere il part-time al 50% negli ultimi 3 anni di lavoro. Lo stipendio sarà pari al 75%. L'assegno previdenziale non subirà però tagli, perché la parte mancante sarà coperta dallo Stato. Si tratta comunque di una misura sperimentale con costo massimo di 100 milioni l'anno. Per gli esodati in arrivo l'ultima salvaguardia per circa 24.000 persone. Contrasto alla povertà e inclusione sociale. L'attenzione alle fasce più deboli si concretizza in 2,9 miliardi in 3 anni. Nel 2016 400 milioni saranno destinati ad anziani non autosufficienti, disabili e a un piano straordinario per l'edilizia sociale. 600 milioni invece andranno a circa 1 milione di persone, di cui la metà bambini. Lo strumento utilizzato sarà il reddito di inclusione attivo, sussidio massimo mensile pari a 400 euro per famiglia, con 5 componenti. Per la povertà educativa sono 100 milioni a disposizione, alimentati da versamenti delle fondazioni bancarie. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro generale sulla manovra. Torniamo a parlare di corruzione dopo l'indagine che ha scosso la Regione Lombardia con l'arresto del vicepresidente della Giunta Maroni, Mario Mantovani. Di questa inchiesta della corruzione nel capoluogo lombardo e nella sanità ci parla oggi Daniele Biacchessi nella sua inchiesta del venerdì. Partiamo dai dati e dai numeri. Il bilancio della Regione Lombardia nel 2015 è fissato in 21 miliardi 325,6 milioni di euro. 17 miliardi 389,9 milioni sono destinati al servizio sanitario. Ed è nelle pieghe di questi numeri giganteschi che, secondo le inchieste della Procura della Repubblica di Milano, si sono annidate le attività dei professionisti della tangente pubblica lombarda. Le recenti indagini hanno portato in carcere il vicepresidente della Regione, il forzista Mario Mantovani. I reati sono corruzione, concussione per appalti nella sanità, compresa una gara sul trasporto dei dializzati. Con lui risultano indagati l'assessore all'economia, il leghista Massimo Garavaglia, arrestati anche Giacomo Di Capo, a capo di gabinetto dell'assessorato alla sanità, un ingegnere nel provveditorato delle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, Angelo Bianchi. Ma l'appetito dei corrotti sulla sanità lombarda è atavico. Nel marzo 2013 l'operazione della DIA, denominata La Cueva, con l'arresto del forzista Massimo Guarischi e di altri illustri politici e faccendieri, faceva emergere episodi di corruzione connessi ad appalti, forniture di aziende ospedaliere di Chiari, Cremona, Valtellina, Valchiavenna. Nei loro documenti gli investigatori della DIA parlavano di una ramificata rete di complicità nel mondo sanitario istituzionale, di contatti accertati con i principali boss dell''Ndrangheta in Lombardia. Nel sistema della corruzione sono rimasti poi imbrigliati nel corso del tempo l'ex direttore generale della sanità lombarda Carlo Lucchina e il cosiddetto faraone Giancarlo Abelli, il RAS della sanità, che rispondeva direttamente all'ex governatore Roberto Formigoni. Proprio come nel passato, dunque, a fare pulizia ci ha pensato la magistratura e gli investigatori, mentre i vertici della politica lombarda stanno ancora parlando di attacco politico e difendono quello che, almeno leggendo le carte, pare oggi indifendibile. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per sentire che cosa succede sui mercati nella seconda parte della trasmissione. Torneremo a parlare della manovra e delle reazioni di Bruxelles e poi ci occuperemo degli appalti all'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici romana. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Turchia ha abbattuto un velivolo non identificato sui suoi cieli, si tratterebbe di un drone, probabilmente di un drone russo, il rischio è che si alzi ancora la tensione appunto tra Ankara e Mosca. Renzi all'Europa, se respingono la manovra, dice Radio 24, la rimandiamo a Bruxelles tale e quale. Il caso dell'imprenditore scomparso nel Bresciano, perse le tracce anche di un dipendente. Medio Oriente, in Cisgiordania, la giornata della collera infiamma il complesso della tomba di Giuseppe. La GCOM ha aperto, ossia l'autority sulle telecomunicazioni, ha aperto un'istruttoria su Auditel dopo il caso della fuga di notizie sull'identità di una parte del campione. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il momento della borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Adesso ritorniamo sulla legge di stabilità e soprattutto sulle parole di Renzi. Riascoltiamole, va. Ce l'abbiamo? Fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale e quale e sei uno pari non cambia niente. Cioè, questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici beh, peccato, sì. Ma in questo caso non esiste perché... Uno, siamo gli unici no, siamo su 28 paesi tra i pochissimi che rispettano le regole. Cioè noi siamo tra i pochissimi che stanno dentro le regole europee. Siamo soltanto noi, classe politica italiana, che tutte le volte con fare tafazziano guardiamo all'Europa raccontando che in Italia l'Europa boccerà. Oh, ma noi siamo gli unici che stanno dentro, non soltanto il 3% ma il Fiscal Compact. Così questa mattina ospite di Alessandro Milan e Oscar Giannino ad Attenti a noi due, 24 mattino Attenti a noi due, in onda tutti i giorni dalle 8:15 dal lunedì al venerdì. E torniamo in diretta con il nostro Sergio Nava, che abbiamo già sentito in apertura di trasmissione, inviato a Bruxelles per capire se ci sono state ulteriori reazioni rispetto a quel che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, che magari ci puoi riassumere, Sergio. Sì, buongiorno Simone, no, qui il midday briefing, cioè l'aggiornamento quotidiano, la conferenza stampa quotidiana della Commissione è finita, per cui resta valido quanto detto prima. La Commissione, di fatto, i portavoce della Commissione sono rimasti estremamente abbottonati di fronte al fuoco di fila delle domande dei giornalisti italiani proprio sulle parole di Renzi, che sono state protagoniste praticamente di buona parte di questa conferenza stampa odierna. Il messaggio fondamentale è stato: abbiamo una base legale per guardare nei dettagli della legge di stabilità, cioè da parte di Bruxelles, pur con tutto insomma il tasso utilizzato diplomatico, il messaggio è stato: noi comunque gli strumenti ce li abbiamo e la base legale per fare queste valutazioni ce l'abbiamo. Dopodiché è stato semplicemente detto: il 5 novembre pubblichiamo le previsioni economiche di autunno, abbiamo tempo fino a fine novembre per esaminare la manovra, abbiamo un dialogo con l'autorità italiane, per il momento non abbiamo altri commenti da fare. Ovviamente un po' di imbarazzo qui a Bruxelles per le parole di Matteo Renzi, però questa sostanzialmente questo è il commento a caldo. Un'altra cosa importante, sì, sul fronte immigrazione è stato confermato che la prossima settimana partiranno altri 100 ricollocamenti dall'Italia, anche se anche in questo caso Bruxelles non ha specificato verso dove andranno i profughi che partiranno dall'Italia. Ti ringrazio, grazie al nostro Sergio Nava, inviato a Bruxelles. Saluto Simone Canettieri, collega del Messaggero. Buongiorno Simone, benvenuto. Anzi, sì, buongiorno. Bentornato ai nostri microfoni. Vogliamo parlare con te della vicenda dell'ATAC, ossia l'azienda dei trasporti pubblici romana. Ieri un'altra giornata di passione, sì, L'abbiamo raccontata, con la metro ferma per un incidente che mette ancora una volta in evidenza il problema della manutenzione, e dall'altra parte questi dati incredibili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che rivelano come tanto negli ultimi due anni della Giunta Alemanno quanto nei tre anni della Giunta Marino sostanzialmente non si è mai andate a gara d'appalto, praticamente tra il 90 e l'85% al minimo nel 2015 sono stati quasi tutti affidamenti diretti per il trasporto pubblico romano, no? Certo, diciamo che ancora una volta scena e retroscena si sono sovrapposti ieri, quindi da una parte c'è stato il disagio, no, che è visibile a tutti i romani, che non è nemmeno quasi più una notizia ma la constatazione di un'emergenza, dall'altra è uscito fuori con una certa virulenza questo rapporto dell'ANAC che dice una cosa, diciamo, esplosiva, ma allo stesso tempo che era intuibile, visto l'ambiente in cui matura, che comunque siamo sempre sullo sfondo di mafia capitale, di un sistema, quello degli appalti diretti fuori controllo, che hanno fatto scuola per l'inchiesta condotta dalla Procura a Roma in Campidoglio e che adesso sembrano spostarsi verso un'altra delle grandi mammelle di Roma, che è l'ATAC, no? E quindi ovviamente questa vicenda accende un faro molto inquietante, perché quello che emerge è che in 5 anni, a fronte di una spesa di circa 2 miliardi di euro, che è l'equivalente di quanto comunque il Comune di Roma negli ultimi sempre 5 anni ha dato in affidamento diretto alle cooperative, c'era lo stesso menage anche in ATAC. E la cosa che colpisce è che anche se con Marino, diciamo, diminuiscono gli importi, però le percentuali degli affidamenti sono sostanzialmente sullo stesso livello. Questo significa che comunque una volta che è subentrata la nuova amministrazione, tra le gare che sarà costretta a prorogare e un certo modus operandi che era difficile da estirpare, si è andata avanti così. Ora tutti si chiedono cosa succederà. Questa è una bella domanda, perché l'assessore Stefano Esposito, scoppiettante come sempre, ieri è andato anche in procura e ha consegnato un dossier di 100 pagine che poi si trasformerà in un esposto a Giuseppe Pignatone. È facile immaginare, ma l'aveva anche fatto capire, insomma, tra le righe Orfini in una trasmissione pochi giorni fa, che questo possa diventare un nuovo filone di mafia capitale, perché, ripeto, diciamo, i sistemi sembrano molto simili, sì, a quelli che hanno scomposto il Comune di Roma. Quello dell'affidamento diretto. Ti ringrazio, certo. Grazie a Simone Cannettieri del Messaggero, anche per grazie la sua precisione, chiarezza e rapidità. Andiamo a chiudere parlando del sinodo, il sinodo sulla famiglia, ormai agli sgoccioli, non manca le polemiche per la fuoriuscita di notizie, secondo molti ad arte, per condizionare l'esito dei lavori. Katia Caramelli ha fatto il punto con Monsignor Domenico Mogavero, canonista e vescovo di Mazara del Vallo. Bisogna vedere se la lettera è stata fatta uscire ad arte o se comunque qualche giornalista, essendone venuto in possesso, ha ritenuto che la notizia, secondo la vostra professionalità, andasse comunque data. Certo, la lettera di suo era riservata al Papa, la corrispondenza privata va rispettata nella specificità appunto della sua natura. Se qualcuno o se più padri avessero voluto fare un intervento pubblico, avrebbero dovuto farlo in quei termini. Sicuramente ci sono dei malesseri, sicuramente si confrontano due linee che in alcuni punti sono abbastanza diversi, se non contrapposti tra loro. E bisognerà trovare una sintesi, e questa è la difficoltà vera del sinodo. L'intervista integrale la potrete ascoltare in Oltretevere, Vaticano e dintorni, in onda domenica alle 7:10, sempre della nostra Katia Caramelli. Adesso il traffico, America 24, ci ritroviamo alla fine per i saluti.